sarebbe? Live sarebbe Battisti dal vivo, cioè con pianoforte e con chitarra. Perfetto, perfetto. Allora, io direi, prima di così cominciare a fare tanti discorsi cerebrali sulle canzoni, di fare un passo indietro. Cioè, io vorrei proprio tornare alle canzoni che mi sono più piaciute molti anni fa, alcune incise direttamente da Lucio, altre no. E volevo che tu, Lucio, me le potessi riaccennare o col piano o con la chitarra, come ti viene meglio. Non so, canzoni, ecco, forse quella che mi piace di più delle vecchie si chiama Non è Francesca. Non so se tu sei d'accordo. Sì. Sì, cioè, che ti piace Non è Francesca? Sì, ma proprio che mi piace bene, no, ma delle prime, cioè quella che io preferisco. Ecco. Non so te. E ti dico pure perché la preferi, poveraccio. Si deve sempre spostare fra chitarra e piano. La fai? La fai subito. Ma devo farla nella maniera tradizionale o un po' underground? Vabbè, non lo so, come vuoi tu questo? Un po' underground. Underground. Vai, vai, proviamo. No, vai. Ma underground, che sarei metropolitana. Ci prende in giro adesso. Facciamo un genere metropolitana. Non è Francesca, Lucio Battisti. Com'era? Va avanti mezz'ora, no? Sì, sempre sì, come sì. Se e poi a un certo momento fa baby, baby, baby, e poi dopo proda a solo di chitarra tre ore, poi un mezz'ora di solo di basso, e poi fa ti stai sbagliando. No, meglio, perché così sarebbe suonato. Ti stai sbagliando, che hai visto non è Francesca. Lei è sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Se c'era un uomo poi, no, non può essere lei. Poi Francesca no. Dai, fallo, fallo ancora. Francesca non ha mai chiesto di più. Chi sta sbagliando, son certo, sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per me. Riprende il basso. Baby, baby. E poi dai, finisci. No, no, adesso. Ma comunque è bravo a cantare, no? Ma che era molto bravo. Più bella una volta, no. Ma questa era per dire che. Mi piace molto come canta. È bella, no? Senti, un altro brano, sempre adesso facciamo proprio un passo indietro, no? Si chiama Nel cuore nell'anima, credo lanciato dall'Equipe 84. Forse una delle prime volte con questa storia del Prato Verde, no? Una delle prime volte che così una canzone ti fa pensare un attimo, cioè resti un attimo lì, capito? Perché se non è Francesca, poteva essere una canzone, almeno che a me mi ha colpito molto perché era vera, capito? Perché era finalmente un fatto, non il solito amore tradizionale in una cornice rosa, ma per una volta, capito, resti un attimo lì bloccato e pensi così, può essere anche un dramma. Invece Nel cuore nell'anima proprio mi ricordo che è stato uno stravolgimento totale con questo Prato Verde. Che ti ricorda te? Mogol. Il cuore nell'anima è secondo me è una canzone molto lirica, sia è un testo. Spieghiamo, non nel senso dell'opera. No, non nel senso dell'opera. No, è meglio sempre essere molto chiari. Beh, insomma, farla ascoltare così. No, ma a parte che ha detto tutto Paolo, ha detto tutto, mi sembra, no? Questo Prato Verde, guarda, è grande. Nel cuore nell'anima, allora si chiama. Dice che loro devono parlare più forte, se no non si sente. Nel cuore e nell'anima si chiama. Sarà mica alta così. No, no, vai, guarda, va bene. Bravo Battisti dal vivo, bravo, canta bene Battisti. Come sei basso. Nel mio cuore, nell'anima, c'è un prato verde che mai nessuno ha mai calpestato, nessuno, se tu vorrai conoscerlo. perché nel mio silenzio anche un sorriso può fare rumore. Non parlare, non parlare, non parlare. Nel mio cuore, nell'anima, tra fili d'erba vedrai ombre lontane di gente sola che per un attimo è stata qui e che ora amo perché se n'è andata via per lasciare il posto a te, per lasciare il posto a te, per lasciare il posto a te, per lasciare il posto a te. Bella, bellissima. Questa canzone non mi è piaciuta così tanto come adesso. Ma guarda che veramente... Oggi siete molto in forma, No, non è che siamo molto in forma, è un giorno qualsiasi oggi. Solito. Senti, ancora sempre parlando così di quel periodo, un pezzo che si chiama 29 settembre, pure questo stavamo prima parlando che forse il tema è stato proprio un po' ripreso da, adesso dai Pooh, no? Con questa loro tanta voglia di lei, o no, Giulio? Beh, io il testo di Ho tanta voglia di, me, di lei non lo conosco bene, però se... Ma penso che è un po' l'idea, capito? Forse sarebbe che meglio torna. Che giudicassero gli ascoltatori, magari riascoltandolo. Sì, pure questa ce la sentiamo. Perché 29 settembre, così un giorno a caso? Vabbè, io un giorno a caso, un giorno a caso. Se 29 settembre poteva anche essere il 14 di ottobre, non cambiava niente. Giornale radio. Tu fai il giornale radio? Eh beh, sì, vai. Allora. Giornale radio. No, ma prima io devo fare seduto in quel caffè e poi devo fare il giornale. Ah, beh, vabbè, vabbè, vabbè, vai. Non è molto accordata, ma comunque è underground. Vabbè. Seduto in quel caffè. Giornale non... radio. No, fammi finire. Quando devo farlo? Devi farlo quando ti faccio il segno io. Fallo tu, Giulio. No, perché non mi ricordo bene io, cosa dice il giornale. Se caffè io non pensavo a te. Giornale radio. Ah, vabbè, oggi vabbè, 29 settembre, ciapatrapa, ciapatrapa. Sì, ciapatrapa. E poi... E poi basta, poi come vai tu? Poi guardavo il mondo che già da me, nell'elezione del Presidente della Repubblica. Va bene, va bene, va bene. Hanno letto tanto. Allora, ciapatrapa. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Giornale radio, oggi 29 settembre, arrivando le parole andate le parole in lingua scuola. Facciamo senza giornale radio perché sennò... Ti ragazzi, viene male, basta. Potevo fare una parte finalmente. Mi hanno dato una chitarra scordata. Vai, vai, vai. Aspetta. Certo, 29, ti ricordi il tempo in cui per la prima volta è arrivato il sitar in Italia, 29 settembre? Sì, certo. No? Cioè proprio quel periodo così, il beat, la fine del... Quanto tempo è passato? 3 anni, no? Di più. Di più? 5. 5 anni. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio lei stretto come se non ci fosse che lei. Guardavo solo lei e non pensavo a te. Tutta la città correva incontro a noi, il buio ci trovò vicini, un ristorante poi di corsa a ballare sotto braccio lei stretto verso casa, abbracciata lei quasi come se non ci fosse che lei, come se non ci fosse che lei. Dopo il 30. Mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Poi il sole ha cancellato tutto. Di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono, parlo, ride tutto, non so perché, t'amo, t'amo e tutto, non so perché, parlo, ride tutto, non so perché, t'amo, t'amo e tutto, non so perché, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Si chiamava 29 settembre, bellissima. Poi c'è un pezzo che mi piace abbastanza che si chiama 7:40, un pezzo che c'è proprio il tempo e addirittura la violenza del tempo addosso, capito? Perché questo incalzare molto svelto. Non so se per voi rappresenta un momento del discorso, di tutto no, il discorso. No, non è, secondo me è un fatto più tecnico. Sì, questa è una canzone cinematografica che racconta un fatto e non vuole andare più in là del fatto, insomma. E la facciamo col piano, allora. Sì, Battisti e Chopin. Al pianoforte. C'è un treno che parte alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Ti bastano 10 minuti per giungere a casa nostra. La chiave ricorda che è sempre lì, lì sulla finestra. E nel far le valigie ricordati di scordare qualche cosa di tuo che te poi mi faccia pensare. E ora basta non stare più qui, ti rendi conto anche tu che noi soffriamo di più ogni istante che passa di più. No, non piangere, presto presto, presto presto, presto presto, vai. Che dice che per tutti i segni? Pensavo che avesse fatto ascoltare abbastanza la canzone, sennò si sgola perché continua a cantare. Anche perché gli piace abbastanza, se gli piaceva molto la facciamo sentire tutta. Invece gli piace abbastanza, l'abbiamo fatta sentire anche abbastanza. E l'altra invece celebratissima che si chiama Acqua Azzurra, Acqua Chiara, pure questa è un enorme successo. Questa? Com'è? Questa è una canzone. Ma questa è sempre un fatto di tecnica, sia è una canzone che forse è una delle prime che agisce sul passato e sul presente, no? Senza preavvisi, cioè di colpo fa dei discorsi del passato e del presente, lasciando all'intuito dell'ascoltatore la possibilità di individuare passato e presente. Ecco, ma c'è già così tutta un'idea dei ricordi che poi troveremo in emozioni, in pensieri e parole. Più come tecnica che come significato, perché questo non è un discorso molto intimo, se non è un discorso profondamente nostro, è un discorso direi così, che racconta una storia qualsiasi, ecco, non nostra. Senti Lucio, questa sempre al piano la fai? Sì, perché non si trova più la chitarra. Ma dove andate? Poi dopo la facciamo arrivare. No, ma vado a prendere la chitarra. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar. Dove andare? Ciao, che fai? E poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Forte però, mica male. Vai, vai ancora, dai, con questo. Ti telefono se vuoi. Non so ancora se c'è lui. Accidenti, sì. Accidenti, che farò? Quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, tiro dietro eccetera, poi è uguale. No, questo va avanti così. Poi è uguale, comunque la terza volta è forte perché fa... Sono le quattro e mezzo ormai. Non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Adesso non bisogna che tu non domandi che cosa intendevamo per ma lei. Ma da quando ci diciamo. Sei tu, tutto questo non c'è più. Svisato. Beduinato. Bene, allora ci fermiamo qui. Grazie a Lucio Battisti e a Mogol. Appuntamento con loro due a domani. Paolo Giaccio al microfono, sempre con Battisti e con Mogol. Adesso siamo tornati proprio alla prima canzone con la quale abbiamo conosciuto Battisti, almeno la prima con la quale che ha avuto un certo successo, che si chiama Prigioniero del Mondo, una canzone di cui la musica è fatta non da Battisti, no? Ma no. Da Donida. Sì, è una canzone, vero? Di Donida, sì. Si metti vicino al microfono. È una canzone di Donida che è piaciuta molto a Lucio e allora l'ha incisa. E tu mi stavi dicendo così che è un po', diciamo, il punto d'inizio di un vostro discorso comune. È un punto di inizio. No, stavo dicendo un'altra cosa, che è una canzone, direi che è la canzone che ha anticipato poi quello che è esploso un po' così come sensazione, come desiderio di evasione nell'altra canzone, Il Vento. Non so se sì, ti ricordi l'incisione di Dick. Ce le sentiamo un attimo un po' tutte e due, sì, perché in entrambe, in Prigionieri del Mondo c'è questo desiderio di evadere e nel Vento invece c'è proprio il fatto, lui che se ne va, evade. Sì. Prigioniero del Mondo era quella che faceva avere nelle scarpe la voglia di andare, avere negli occhi la voglia di guardare e invece restare prigionieri di un mondo che ci lascia soltanto sognare, solo sognare. No, se non ci fossi tu io me ne andrei. No, se non ci fossi tu io non sarei prigioniero del mondo. Non aveva ancora il coraggio di evadere, di lasciare il suo mondo, no? Invece nell'altra canzone, Il Vento, ce l'ha questo coraggio, infatti comincia così, no? Cara, son le 8 del mattino e tu ancora stai dormendo. Ho già fatto le valigie e adesso sto scrivendo questa lettera per te, ma non so che cosa dire, è difficile spiegare quel che anch'io non so capire, ma fra poco me ne andrò e mai più ritornerò, io ti lascio sola e quando s'alza il vento, senza il vento, no, più fermare non si può, dove vado non lo so, quanto male ti farò, ti svegliare mai, Bella pure questa, i Dick Dick la facevano una volta. Senti, oggi come avete ripreso questo tema? Cioè con che pezzi, diciamo? Beh, ma non c'è mai la ripresa di un tema. C'è, secondo me, c'è un'evoluzione, una maturazione. Ci sono altri problemi via via che noi scriviamo, sia problemi che ci appartengono in ogni momento. Oggi, naturalmente, allora il problema principale era quello di questa strana sensazione, questa strana voglia di evadere, nonostante l'amore nei confronti del mondo che ci circondava, no? E adesso naturalmente sono altri i temi che si trattano, temi che, per esempio, non so, come il tema della gelosia. E la voglia di superare questo retaggio, in fondo è ancora un retaggio, no? Almeno quando è violento, quando è assoluto. In Amore caro, amore bello, per esempio, c'è questo problema dove l'uomo vorrebbe perdonare, ma non trova la forza, e quando lo fa per vigliaccherie, alla fine. Forse vale la pena di accennare. Ma devo fare tutto? No, solo alla fine, sia, per esempio, cioè lui fa sincera come l'acqua di un fiume di sera, praticamente perché lei aveva confessato una cosa, una sua colpa, sì, sì, l'aveva fatto lealmente, no? Sì. Lui diceva: nonostante ti vedo bella, ti vedo pura, però troppo sole può fare morire. Cioè, questa verità è troppo è troppo per me. E quindi non la sopporto e non ti voglio più. Poi alla fine invece dice, succede qualche cosa di strano. Ma infatti, cosa accade? Ecco, sì. Tu non parli e non piangi stasera, come un bimbo mi guardi severa, io soffro tanto. E cerca di farla vittima. Tanto, ma tanto non ci credi, no? Non ci credi, eppure forse hai ragione, che strano, d'improvviso diventa Arlecchino, ride e balla e ti prendo per mano, amore caro, amore bello, amore mio. Finale. Però adesso che la ricantavo trovo che, beh, giusto, c'è tutta la contraddizione, cioè lui cerca di superare questo coso e sì, poi invece rientra, ma non rientra per nobiltà d'animo, no, rientra perché vede lo sguardo severo di lei e ha paura di perderla, sia lei in pratica dice: come, io ti ho confessato e tu ti comporti così meschinamente. Cioè, avresti preferito forse che io fossi ipocrita, no? Io non e allora lui non per convinzione ma per paura di perderla, perché legge questo sguardo severo, naturalmente dice: che strano, adesso mi sento Arlecchino, ci prendo per mano, insomma la cambia, la gira sì, l'affettata. Ma io volevo domandare una cosa, tu lo sai come accolgo le parole che scrivi per le mie musiche con entusiasmo massimo e capisco ogni parola, però approfitto di questa occasione per domandarci: ma questo significato che c'è, io lo so che c'è, e quando viene spiegato se ne accorge anche l'ascoltatore, ma arriva con le canzoni se non c'è una spiegazione? Io non lo so se arriva, credo che arrivi a qualcuno, arriverà, spero. Comunque, in effetti, arriva qualche arriva, insomma. Evidentemente, se è piaciuta, vuol dire che qualche cosa è arrivato. Adesso poi dovremmo fare una statistica, un'inchiesta. No, io vi posso dire appunto che le lettere che arrivano a noi, per esempio, quando ogni tanto trasmettiamo una serie di dischi di uno stesso autore o legati fra loro, sono sempre lettere che hanno perfettamente capito e molto più di quanto noi non abbiamo giovani, fatto. Soprattutto i giovani. C'è gente, capito, che interpreta le canzoni a suo modo e quindi le sente, probabilmente certo, fa tanti discorsi. Certo. Adesso, per esempio, conforta un po', insomma, via. Ma no, ma l'abbiamo fatto con ma scusa, un altro discorso che forse si poteva veramente legare a questo è una vecchia canzone che a me piace moltissimo, che si chiama Io vivrò. Anche questa mi piace per una sua verità, un suo realismo, non so come dire, capito? Cioè, è una situazione vera. Anche qui, invece che un amore come sempre tradizionale o così, è un trovarsi di fronte a un fatto compiuto, capito? E sforzarsi proprio, tirarsi su, capito? Sì, sì, e certo. Forse questa è un po' anche da legare a prima, Prigioniero del mondo, a Il vento, no? Lontanamente. No, non forse direi, si può non legare. Sono molto d'accordo, perché Io vivrò è più un modo reale di intendere un fatto, però non rivela dei grossi problemi, cioè non rivela un problema intimo, cioè questo, direi che in fondo è una canzone tradizionale, il tema è tradizionale, però è espresso con un linguaggio che forse per quell'epoca in cui è stato scritto si può dire che insomma è abbastanza nuovo, ecco. La sentiamo allora, Lucio, grazie. Che non si muove, appena faccio il pianoforte, è più adatto al pianoforte. A tre dita, no? Tre dita, sì. Che non si muore per amore, è una gran bella verità, perciò dolcissimo mio amore, ecco quello che da domani mi accadrà. Te, anche se ancora non so come io vivrò senza te, io senza te. Continuerò e dormirò, mi sveglierò, camminerò, lavorerò, qualche cosa farò, qualche cosa farò, sì, qualche cosa farò, qualche cosa di sicuro io farò e piangerò. Con tre dita, ma senti un'altra adesso, Giulio, mi stavi dicendo che ti piace molto Balla Linda. No, Balla Linda, che per ecco, esempio a me, ecco, questa non motivo. Mi è mai piaciuta, ecco. A me piaceva Prigioniero del mondo, che era il sì, retro, no? No, ma a me piaceva Balla Linda e soprattutto credo che ci fosse un germe nuovo in questa canzone. In effetti c'è un certo amore per ribellarsi a un determinato tipo di tradizione, insomma. Il personaggio di questa canzone dice che preferisce una donna anche dichiaratamente non seria, però dichiaratamente non seria, che è un'altra con chi passa per bene, che è una donna tradizionalmente a posto, tutto quanto, e in effetti poi nasconde dei germi maligni molto più infidi. Poi dico, a parte, scusa se accenno un attimo, c'è una melodia che è la fine del mondo. Casualmente. Successo mondiale, mi dice. Infatti è stato successo mondiale. Penso. Occhi azzurri, belli come i suoi, Linda, forse non li hai. ridi sempre. Linda è la ragazza allegra, bella e sincera. Ridi sempre, non parli mai d'amore, però non sai mentire mai. Bella sempre, dolce come lei, Linda, forse tu non sei. Tu non dici che resti insieme a me, però non mi abbandoni mai. Tu non mi lasci mai. Ti parlo e tu ti cerco e tu. E tu ci sei. Ti cerco e tu mi dai quel che puoi. Non fai come lei, no, non fai come lei. Tu non prendi tutto quello che puoi. Paolo Giaccio al microfono, sempre con Battisti e Mogol dal vivo. Ormai la chiamiamo così, questo spazio dal vivo, no? Live dal vivo. Cioè stiamo qui in questo studio con chitarra, pianoforte, o meglio lui sta con chitarra e pianoforte, noi semplicemente con un microfono. E oggi parliamo sempre un po', raggruppiamo a filoni queste canzoni, no? C'è un filone che possiamo veramente definire primitivo, che ha avuto il suo punto migliore anche come successo di pubblico con Anna, che secondo me era una cosa strepitosa. Anna, come si fa, col pianoforte o con la chitarra? Beh, accenniamo solo all'inizio, no? Hai ragione anche tu. Coro. L'ho preso in contro mio. Vai. Cosa voglio di più? Una casa io l'ho. No, sono capace. Un lavoro io l'ho. Proprio sui termini, sì. Grezzi, no? Sui termini immediati, sì, quindi effetti, della persona, questo, la casa, il lavoro. Sì, è un uomo appunto, un uomo primitivo, ed è un po' la parte primitiva, sì, di me. Un lavoro, certo. Sì. La mattina c'è chi mi prepara il caffè, questo io lo so, e la sera c'è chi non sa dirmi no. Cosa voglio di più? Hai ragione tu. Cosa voglio di più? Cosa voglio? Anna. Voglio Anna. Ammazza. No, no, ancora un pezzo, dai, è bello. Poi fa. Anna è tutta la storia, voglio Anna, cioè, poi non hai mai visto un uomo piangere senza coro, è bella pure senza coro, eh? Non hai mai visto un uomo piangere, apri bene gli occhi, sai, perché tu ora lo vedrai. Apri bene gli occhi, sai, perché tu ora lo vedrai, se tu non hai mai visto un uomo piangere. Guardami, guardami. Anna, voglio Anna. Diretta, eh? Bella, bellissima. Senti, poi leghiamo subito ad Anna. Che mi piace, sai, no, che ho detto in diretta, perché avevo sentito che si era riprodotto, come si può dire, si era ricreato il feeling che c'è nel disco, è difficile, perché sai. E senti, il pezzo di quel genere che poi invece a me proprio è piaciuto immensamente è stata Il tempo di morire, sì, un'altra canzone mi piaceva pure questa primitiva. Sì, che racconta la storia di un ragazzo che non si capacita come una donna che lui ama non lo ami, e lui è disposto a far tutto per lei. Dentro questo tutto è una motocicletta che lui... Motocicletta! No, ma poi è bello, guarda, con questa chitarra non so se viene un po' di finale con la chitarra, perché a me, cioè, guarda... qual è il finale? È quel pezzo, il pezzo dell'LP che durava 6 minuti quasi, no? Con tutta una storia di chitarra alla fine, mi piaceva. Ma sono due chitarre, perché questa è la parte di accompagnamento. E con questa non puoi fare niente, neanche un gioco. gioco? Di quelli... Come lo posso fare? Una chitarra? Dov'è? Una penna ci vorrebbe, perché sto suonando. Aspetta. Con le dita. Ce l'hai? Ma non ho capito, perché non me lo ricordo, sai. C'era tutta una specie di lungo assolo di chitarra alla fine, ecco, meno male che ce l'avessi. C'è una penna? Meno male, va. cioè, alla fine, quella è una chitarra elettrica sicuramente. Sì, è una chitarra elettrica, è Francone. Insomma, a me questa canzone più lunga era, più mi piaceva, quindi ricreiamo il film. Ma non me lo ricordo, sai, questo finale, perché essendo una cosa fatta in diretta, della quale poi, essendo molto lunga, abbiamo utilizzato per il 45 solo un pezzettino, una parte. Sì. Sai, alla diretta vuol dire che se me lo vado a sentire adesso, sì, a distanza di un anno, ritrovo delle cose nuove perché sono state fatte una volta sola. Okay, se io ne posso fare delle altre. Ecco, vabbè, prova un po', falla lunga, perché questa è proprio bella lunga. Si chiama Il tempo di morire, allora. Motocicletta, 10 HP, tutta cromata, e tu a 16, sì. Mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato, so che morirei. Che guarirei. Non ricordo niente. Ma ho il cuore... Ah, perché so che guarirei. Allora, certo. Aspetta un momento, la dimensionale. Lui dice, ti do la motocicletta e tutto quanto. Sì. In quanto mi so costa una vita. Cioè, mi costa veramente molto. E il cuore è malato, nel senso, sì, che è innamorato di lei, e sì, so che guarirei. Guarirei, perché lui pensa che se lei riesce ad averla anche solo per una notte, guarisce. Non si è scoprendo il significato dei testi. No, un momento, non ti crederai mica che non lo sapevo. No, c'ho avuto un lapis che non me lo ricordavo. Dunque, da dove riprendiamo? Cioè, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato, e so che guarirei. Non dire no, non dire no, non dire no, non dire no. Lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono un disperato, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare. Quando? Adesso, stanotte, sì, mi basta il tempo di morire, fra le tue braccia così, domani, no, no, no, no, no, no, domani, sì, ma adesso, adesso, adesso, dimmi di sì. Non dire no, non dire no, non dire no, no, no. L'orchestra è tutto. Non dire no, no. E ma è vicino. Lo so che ami una, ma che ci posso fare? Io sono un disperato, perché ti voglio amare, perché ti voglio, ah, mi ricordo, amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, stanotte, adesso, sì, mi basta il tempo di, mi basta, mi, mi basta il tempo di, così, domani puoi dimenticare, domani, ma adesso, adesso, adesso, dimmi di sì. Poi... Non dire bella, no. Questa qui è però veramente questa molto fisica come canzone, sì, no, ma fa più, parte è la più fisica, è la più primitiva del sì, mio, sì, sì. Fa proprio parte di questo, di uno che ha due dita di fronte, no, due dita di fronte, ah. Senti, l'altra molto pure così, sempre in questo clima, è il dietro di pensieri e parole, no, che si chiama quello che dici, la donna è donna, è una donna, sì, sei, sì, la donna è donna, fai un pezzettino, com'è, magari fai un pezzettino. Come si chiama? Insieme a questo bene. Che cosa vuoi da me? Cosa pretendi da me? Se è giusto non lo so. Elementari sì e no. La donna è donna e tu una donna sei una donna. Che importa cosa fai? Resta qui con me finché vuoi, che freddo non avrai mai. Insieme a te sto bene. Sai, non ho avuto più di te che ora tu mi dai. Ecco, per esempio, adesso stavo guardando qui su questo lompreno che è in mano. Sì. C'è una relazione, indubbiamente, fra mi ritorni in mente, fiori rosa, fiori di pesco, amore caro, amore bello, e poi va a finire in L'Aquila. Ah beh, L'Aquila è questa nuova, sì. Sì. La relazione, se tu ci fai caso e mi ritorni in mente, praticamente lui non la perdona. Sì. Se ritorni in mente, ma dice, ma quando mi ricordo del fatto, quella sera, quel fatto di quella sera precisa, cioè non c'è più niente da fare in pratica, no? È solamente così un dispiacere che provo, ma non ti salvo in nessun modo, non ci sarà più niente fra di noi. Invece in Fiori Rosa e Fiori di Pesco c'è questo desiderio di ricominciare, però è lei che era un figlio impegnato, quella col signore. Sì, lui entra, ripercorre la strada convinto che nessuna donna poteva non amarlo più, no? Come in fondo credo che un po' tutti gli uomini hanno questo vizio, no? Di credere, sì. Sì, questa presunzione di che sia impossibile che una donna cessi di amare per preferire un altro uomo. Le puoi fare tutte e due un po'? Cioè, facciamo i punti critici. Sì, quale sarebbe? Quella sera ballavi insieme a me, ti stringevi a me, all'improvviso mi hai chiesto lui chi è, oh, lui chi è. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso, il nostro amor dissolversi nel vento, ricordo sono morto in un momento. C'era frase. Invece fiori di rosa, invece fiori di rosa, fiori di rosa, dice scusa sono venuto qui questa sera, da solo non potevo dormire. Sì. Sì, in pratica lui entra in casa, entra, sente le sue mani, si sente gelate e pensa che come, lei ha le mani fredde perché lo ama ancora, invece no, perché c'era un altro uomo. No, non sto sbagliando, mi ami, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero. E poi la voce si interrompe, dimmi che è vero. Scusa, credevo proprio che fossi sola, credevo non ci fosse nessuno con te, oh scusami tanto se puoi, signore chiedo scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me, si vergogna, partisce di vergogna, io ero proprio fuori di me quando dicevo posso stringerti le mani. si sbagliava. Dimmi che è vero. Senti, a proposito di questo, sempre di anche qui, insomma, i personaggi sono sì e no abbastanza fisici o no, sempre ogni sì, tanto sì, primitivi, insomma, sì, questa scoperta abbastanza cinematografica, così sì, come canzone. C'era quella lì che a me piace molto, ma che invece non piace a tutti, che si chiama Antonio Tal, mi chiamo Antonio Tal di Tali, incisa dalla Formula 3, sì, no? Nel long play. Proprio sì, questo. Questa è primitiva, questa si riallaccia un po' al discorso insieme a Testo Bene, sì. Il tempo di morire, Anna, e io vorrei che lui l'accennasse, poi sì, magari è forte. Sì, sì. Ma questo omone, capito? Questa ma pioggia, cioè c'è tutto. Stamattina mi sono svegliato alle 6, ho scaricato casse di piselli, banane, arance, chissà cos'altro mai. E pioveva, mi pioveva addosso, sulle mani, dentro gli occhi, nei capelli, persino sulla frutta che si è bagnata tutta. La storia di un povero uomo di buona volontà. Ma io lavoravo ed ero contento lo stesso, volevo fare presto perché sapevo che t'avrei rivisto. Ho finito che era buio mezz'ora fa e sono corso qui a casa perché sapevo che t'avrei rivisto. Stanotte no! E naturalmente il fatto che va avanti a ripetizione, perché è un'idea fissa, capisci? Sì, hanno chiodo, sì, a lui rimane completamente stupito del ha fatto lavorato, che si è bagnato, no, dice adesso vado a casa, non ci crede, è un po' la storia di in un certo senso, la stessa reazione che il personaggio di motocicletta, no? Non riesce a capire perché la donna sì, non lo ami. Preferisci fare un rock. Uscir nella brughiera di mattina dove non si vede a un passo, per ritrovare se stesso, parlar del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentire che dentro qualcosa muore. E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Solo perché è stato un po' scortese, sapendo che quel che brucia non sono le offese, e chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi, emozioni. Tu chiamale se vuoi, emozioni. Bravo anche con la chitarra solo, riesce a dare delle emozioni. Sì, no, questa è proprio una canzone incredibile. Senti, invece, delle ultime che voi avete fatto, anzi l'ultima praticamente, la canzone del sole, A me mi fa molto pensare come discorso ad emozioni, cioè mi sembra abbastanza legata. Secondo voi è vero o no? Perché poi ognuno, no, capito, no, secondo, no, secondo me non è legata l'emozione alla canzone del sole. No, semmai è un discorso forse un po' più vicino. È una canzone che è legata, secondo me, più forse a, fra amore caro, amore bello e a pensieri e parole. Perché il pensiero di parole è un po' tutta la tecnica sia della, del passato che ritorna, il discorso, e il discorso che era nato come fatto tecnica in acqua azzurra, non so se ti ricordi. E invece amore, amore caro, amore bello, c'è tutta questa gelosia, no? Tutto questo fatto, questa diffidenza nei confronti della persona amata. Ma scusa, invece io parlavo così, più o meno tenendomi al tema della natura, cioè la canzone del sole, oltre a questo mare nero, va bene, che può essere anche a livello mentale, proprio una specie di velo nero che uno si butta addosso dopo aver visto il mondo com'è, e anche a livello così proprio di natura un discorso abbastanza preciso sull'inquinamento dell'aria, sì, dell'acqua ma proprio che... anche un inquinamento, sì, fisico, sì, capito, sì, della c'è ovviamente ci sono sempre dei richiami in pratica con le altre canzoni, voglio dire, in fondo sono sempre pensate da una stessa mente, parlo del testo, no? Ma secondo me, se c'è una canzone che è più vicina come spirito, come modo, anche se non è, se è un momento successivo, è più L'Aquila, quella che ha inciso Bruno Lauzi. Quella è più vicina ad emozioni. Sì, più vicina. Ecco, sì. Io L'Aquila anche, non... anche se è un discorso, direi, non così assolutamente negativo, voglio cioè, dire. L'Aquila io la conosco L'Aquila molto poco, no? Spiegami un po' di vicinanze. Beh, c'è un'identificazione con la natura in entrambe le canzoni. Poi con L'Aquila c'è un... In fondo con emozioni non si parla di inquinamento dell'animo e inquinamento, così come fatto ecologico, no? Della natura. Mentre nell'Aquila c'è proprio come c'è nella canzone del sole, no? Questo problema che non è solo un fatto... L'inquinamento della natura lo è anche delle persone, dell'anima, appunto. E soprattutto tante volte, come nella canzone del sole, si risolve in una bolla di sapone perché è più diffidenza, no? Che inquinamento, in effetti. Sì. Allora, scusami, quest'Aquila che oltretutto conosco poco, no? Cominciamo proprio a entrarci dentro lentamente. Cioè, facciamo anche così, siccome abbiamo il disco di Lau, sicuro che ha cantato bene, facciamo un primo pezzo cantato da Battisti e un secondo di Lauzi. Però se... non so se è possibile farlo per la differenza di tonalità. Non so se Lucio... Vabbè, vai, perché parliamo... sono due voci differenti. Se non, Lucio... so se... non mi ricordo che tonalità è quella lì. Proviamo, che... vai, proviamo. Sì, forse questa. Il sì, fiume sì. Va, guardo più in là, un'automobile corre e lascia dietro sé del fumo grigio me, e questo verde mondo indifferente perché da troppo tempo ormai apre le braccia a nessuno come me che ho bisogno di qualche cosa di più che non puoi darmi tu, ma un'auto che va, basta già a farmi chiedere se io vivo. E adesso passiamo al disco, appunto. Mezz'ora fa bene, questa qui si chiamava L'Aquila, un pezzo abbastanza nuovo, inciso sì, da no, Bruno Lauzi. È assolutamente nuovo. È l'ultima della nostra. Sì. Lui è tutto abbastanza. Quando è qualcosa che è un po' più di abbastanza, bisogna che ce lo fai capire, perché sennò sembra un vizio, capito? È vero. No, invece, ma forse c'è qualcosa. Probabilmente vizio. Volevi dire che era proprio abbastanza. Bravo, bravo. Ecco, però specifica quando è un po' più di abbastanza. Si chiama pisticologo, no? Storia. Senti, questo Aquila, ne riparliamo poi magari pure domani, perché proprio, secondo me, l'ho detto anche prima, al primo ascolto è un pezzo che lascia un po' perplessi, perché è molto... Cioè, è una canzone indubbiamente da ascoltare più volte. Comunque, a me piace moltissimo il disco, proprio mi piace molto. Vabbè, restiamo così. Tu sai che ho cambiato casa discografica recentemente e la casa discografica per la quale incidevo fino a poco tempo fa, naturalmente, come suo diritto, ha utilizzato tutte le incisioni vecchie e vecchissime che aveva. Insomma. Perché per esempio c'è un brano Adesso sì, di una canzone, capisci? Di Andrigo. No? Quello lì era il provino che ho fatto per andare a Sanremo. per vedere se... No, perché c'è infatti un Charleston, quei piatti che sbattono, sì, fra loro di sottofondo, no? E sembra essere ai tempi del cia-cia-cia. Sì, infatti quelli erano... Sì, è un peccato però. Comunque appunto... Sì, è un peccato, ma un peccato, sai peccato sono... perché... Sono quelle case che fanno il discorso, diciamo, strettamente contrattuale, senza tener conto delle ripercussioni artistiche, che comunque non credono che siano molto nocive, anche perché stiamo preparando un long play molto forte. Che uscirà in primavera. E quindi che sarà veramente, il nuovo long play. No, anche perché, canzoni nuove. Senza far tante polemiche, cioè Battisti ancora non ha mai fatto un long play se non Amore non Amore. Sì, appunto. Che ma forse poi... è stato un risultato non tanto riuscito, secondo il mio modestissimo giudizio. Invece io, beh, è molto modesto il tuo giudizio, perché per me... Scusa, per me è molto bello, anzi è così bello che molte cose sfuggono, proprio perché hanno un valore non tanto facilmente inquadrabile e riportabile a un discorso commerciale. Scusa, io continuo la polemica brevissimamente, cioè perché Amore non Amore non mi è piaciuto? Perché tutte le canzoni avevano un'ambientazione molto fisica, molto primitiva, cioè molto lontana. E te credo! Era proprio per questo, ed era proprio il centro, te lo puoi spiegare Giulio, sì, no, che è il teorico del gruppo. Il teorico del gruppo, no, in effetti con Amore e non Amore basta il titolo, no? Amore e non Amore. C'erano due discorsi in contrapposizione, no? Un discorso di amore che era rappresentato da tutti i brani per solo orchestra, e poi c'era un discorso di non amore, insomma, che passa normalmente per amore, no? Sì. E c'erano appunto, c'è Supermarket dove c'è questa storia di amori ibridi, o amori di interesse, eccetera, eccetera. E proprio da questa contrapposizione stridente, no? che nasce questo long plan. Comunque, in un certo senso hai ragione, basta sapere una cosa che forse tu, così inavvertitamente, non ti sei curato di sapere, invece mi sembra che avresti dovuto sapere, cioè che quel long play è stato realizzato e registrato esattamente un anno prima di Pensieri e Parole. Sì. Per i soliti scherzi e lavori strani che io non capirò mai delle case discografiche, è stato tenuto un anno nel cassetto. Logicamente, quando è uscito era, certo, già in parte superato da Pensieri e Parole, ma non è che questo togliesse il valore intrinseco. No, ecco, scusami, in questo siamo d'accordo, perché appunto io pure ho fatto questo tipo di critica, cioè dopo Pensieri e Parole, dopo Emozioni, questo LP era molto sminuito rispetto appunto alla produzione battistiana, diciamo. Comunque, scusami, che è stata definita anche scellerata anche in altri casi, bisogna te decidere, o è eccelsa o è scellerata. Fammi uno stacchetto con Pensieri e Parole, proprio brevissimo. Senti, invece, adesso il periodo, diciamo, di ritorno, capito? La produzione, secondo il mio giudizio, eccelsa, tanto per farti un po' di contesto, è Canzone del Sole. Facciamo così, cioè, Lucio, sentiamoci metà fatta da te adesso dal vivo, quindi con questa vocalizzo eccezionale, e poi metà sul disco, va bene? Canzone del Sole, poi ne parliamo pure, parliamo, magari, verso la metà, quando stacchiamo le due cose. Le bionde trecce, gli occhi azzurri, e poi le tue calzette rosse. E l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano. E le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Donna, dimmi cosa vuol dire, sono una donna ormai, ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei, che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo, ma ti ricordi l'acqua verde noi, le rocce, il bianco fondo, che colore sono gli occhi tuoi, se me lo chiedi. Senti Giulio, adesso sì. Qui c'è un altro dissidio fra te e me, credo. Perché io per Mare Nero, più che appunto questo problema fisico dell'inquinamento, pratico, diciamo, proprio da toccare, vedo una cosa, proprio dico, questa cappa nera, capito, che cala sulla in persona, effetti, proprio una effetti, specie di velo. Ma io volevo assolutamente proprio questo. Dare questa sensazione. Allora, lei dice qua no, volevo assolutamente dare questa sensazione, voglio dire, però... No, no, ma non ma nel contempo, no? Bene, questo abbinamento dell'inquinamento, sia della... direi inquinamento morale della persona e dell'inquinamento invece proprio riscontrato anche nel mare, cioè come fatto ecologico, perché il mare, perché, come io mi ricordo quando ero bambino, era più pulito di adesso, sta passando molti anni. Sì, quello sì, no, ma proprio capito, cioè io adesso ti faccio allora il discorso che ho fatto già mille volte, cioè una persona che si guarda allo specchio, allo specchio in tanti modi, cioè c'è anche un modo, diciamo, medico per guardarsi allo specchio, che è quello di andare da uno psicanalista e cercare di tirar fuori quelle cose di se stessi che uno non riesce a tirar fuori, passa molto spesso attraverso alcune fasi, va bene? Una potrebbe essere la fase completamente fisica che ha caratterizzato un momento delle vostre canzoni. Parlo di Antonio Tal dei Tali, La donna è donna e tu una donna sei. Parlo anche di alcune canzoni di Amore non amore, in cui ci sono questi frutti, questo fisicume, anche di Mio Dio no, cioè tutte canzoni, capito, abbastanza caratterizzate proprio in questa stanza, per esempio. Dopodiché, ed è proprio forse la reazione a questo guardarsi allo specchio, cioè tu ti vedi e a un certo punto reagisci in qualche modo per cercare ancora di credere di essere vivo, capito? È una reazione anche, per esempio, il fatto di vedere un'automobile e sentirti vivo, il tema un po' dell'Aquila. Cioè c'è questa frase anche nell'Aquila che a me mi ha colpito molto. È proprio l'opposto, la frase dice basta, sì, basta un'automobile per chiedermi se io vivo. Ecco, cioè, basta un'automobile che passi per farmi domandare se vivo. Sì, ma cioè, capito, c'è sempre contrapposti. Chiaro, perché quest'altro genere di canzoni, parlo delle seconde, voglio dire, quelle che ti piacciono di più, sia quelle che senti di più. E poi quelle sono altre... quelle... sono le più, quelle che sono più nostre, voglio dire, le più vicine alla nostra sensibilità. Le altre sono canzoni, tu mi parli per esempio di Mio Dio no. Mio Dio no è una canzone divertente, vuole essere una canzone però, divertente. Scusa Giulio, forse una cosa appunto che poteva chiarire molto, cioè quando Giulio fa quei testi, Mogol, Giulio Mogol sarebbe, no? Mogol scrive quei testi di persone rozze e volutamente vuol riprodurre un'atmosfera che non è esattamente quella che lui sente. Cioè, ecco. No, non è esattamente quello che è. Ma semmai una parte di me, cioè risponde, esatto. Risponde in quel modo. Comunque è lo specchio di un tipo di realtà. Sì, questo sì. C'è. Certo. Esiste, naturalmente cioè, il discorso il non è così esiste, completo. Il discorso non è così completo né profondo come nel caso che io parlo di miei problemi intimi. Beh, no, ho capito, probabilmente andiamo... è proprio una realtà che vedi perché te la fanno vedere, certo, capito? Cioè sì. Che ti capita. Come per esempio le canzoni d'amore versione femminile. La mente torna, si chiama Lucio, attenzione. Ti do un accordo. Ma non bella, guarda, aspetta. Che cosa da comincia? Ah, ecco qui. Non me la ricordo, aspetta. Come ride quando canta. Beh, me la ripasso. Chiamiamo Mina allora. Aspetta. Dunque. È perché è una tonalità da donna, io credo. La mente va dove va, chissà. Mi sento donna così come mai. Fuori c'è un mondo che ormai mi aspetta, io lo so. Io voglio vivere anche per me, scoprire quel che c'è, io voglio, sono già decisa, ma arrivi tu, la mente torna, il cuore mio quasi si ferma. fino io non ho più tempo. Arrivi tu, il mondo è acceso, quello che era mio tu l'hai già preso, non ci sono più per me esitazioni. Ti chiedo solo se mi perdoni. Senti, adesso continuiamo allora col disco di Mina proprio per fare il paragone. No, che paragone? La mente va dove va, chissà. Mi sento donna così come mai. Fuori c'è un mondo che ormai mi aspetta. Io lo so. Io voglio vivere anche per me. Scoprire quel che c'è, io voglio. Apro già la porta, ma arrivi tu. La mente torna, il cuore mio quasi si ferma e intorno a me lo spazio immenso che persino io non ho più senso. Arrivi tu, il mondo è acceso. Apri il giornale, non guardi più me. Mi lasci sola così, perché io volo senza te. Io voglio vivere anche per me. Scopri che c'è, io voglio, sono già decisa, ma mi parli tu, la mente torna, io Va bene, questa si chiamava La mente torna, cantata prima da Battisti in falsetto, una specie di falsetto almeno, e poi da Mina, una canzone di Mogol Battisti, anche questa abbastanza ricca. Siamo arrivati l'ultimo proprio disco di Mina, l'ultimo disco di Mina, sì. Siamo arrivati proprio alla fine lasciando il pezzo che almeno io personalmente prediligo di più dell'ultima vostra produzione. Si chiama Anche per te. Anch'io. Anche tu, anch'io, non è il pezzo che prediligo. Anch'io. Forse il pubblico deve ancora scoprirla, però anche tu, Lucio, se la fai. Sì, sì. Cioè, a me piace perché è veramente una canzone dell'impotenza, capisci? Cioè, fra i ritratti di donne che ci sono questi ritratti, secondo me, veramente molto veri, molto veri, molto realistici, capisci? E poi questa spinta che non riesce di dare, di dare a tutti qualcosa. Dimmi qualcosa, cioè, come ti è venuta? No, questa c'è è il mio problema, più grande dei problemi che ho, cioè l'impossibilità di vivere con tutti, di comunicare con tutti, di dare a tutti qualche cosa. L'impossibilità è che uno ha due braccia, due occhi, non può, però questo mi fa molto male. Forse è un discorso da megalomane, non lo so. Comunque mi fa male tanto da scrivere una canzone. Si chiama Anche per te, Lucio, la fai col piano? Sì, faccio un'altra versione. Ok, Anna, poi. Per te che ancora notteggia, prepari il tuo caffè, che ti vesti senza più guardar lo specchio dietro te. Pensi al mondo ormai per te così lontano, per te che di mattina torni a casa tua, perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te. Canta lui che dorme e aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. Anche per te vorrei morire, io morire non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. E così, io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi. Al vento avrebbe detto sì. E così, e così, e così. vento avrebbe detto sì. Questo veramente è un pezzo, vabbè, fa parte dell'ultimo 45 giri, ultimo, veramente ultimo 45 giri di Lucio Battisti. È un pezzo forse da scoprire, perché è il retro della più affermata canzone del sole. Senti, sì, concludiamo, perché in questo momento ho ritrovato il disco di Lauti. E che vuoi dire dopo questa canzone? Siccome invece vi piace tanto questo disco di Lauti, concludiamo passando proprio... Lauti, va bene, quella la possiamo dire. Siccome ho trovato il disco, stavolta sentiamoci completamente il disco e non cantata da voi. Con questo ci salutiamo, naturalmente arriveranno molte lettere e farò in modo di recapitarvele. Grazie. Speriamo non molti in più. No, non credo, no, perché veramente avere questa. Magari lo ripetiamo fra qualche mese questo esperimento con i pezzi nuovi o per l'uscita delle lettere. Fra 300 mesi. Spiritoso, sì. Adesso si sciolto. Sentiamo. Ormai ho dato, hai capito? Canzone lì, che poi fa? Il cuore. Vabbè, sentiamo questo di Lauti e concludiamo così allora. Cosa di...